In ogni sentiero e ogni piazza riecheggia la mia voce. 100.000 pazzi, 100.000 pazzi. Intorno cala la nebbia lacrimogene, sbuca un cellerino col manganello alzato. Curre, curre, voglio, sono veloce, prendo sotto braccio l'amica mia, prendo sotto braccio te che non ti ho visto mai. Corriamo via, siamo veloci, siamo a Napoli, siamo a Genova, siamo fuori le mura di Rebibbia, siamo ai piedi della diga di Toiz, ci caliamo dal cupolone, siamo nella notte sulla linea di qualsiasi frontiera. Nessun confine, confini zero, siamo zapatisti, tupamaros, black bloc, siamo indiani contro, siamo pieni di sostanza, siamo intorno a un fuoco a Gaza, non ci sono mai stato, ma ci sei stata tu, e io sono là, e quello è un tank israeliano che ci passa sopra. Cuore, rulla come un tamburo. E allora brindo che siamo ancora qua, a riconoscere chi siamo stati e siamo, comunità che non si stanca e nella transumanza ritrova strada e terra, odore nostro che riconosce odore.